con la musicista Alessandra Celletti per parlare del suo nuovo album Celletti Blu e del documentario Piano Piano On The Road di Marco Carlucci. Per l'evento che sarà a Roma, allo spazio Apollo 11, lunedì 15 aprile 2019. Alessandra, ben trovata. Grazie, ciao a tutti. Un'occasione per presentare l'album e per vedere il documentario. E raccontaci un po'. Allora, sì, la serata sarà articolata in queste due parti, diciamo. Nella prima parte sarà proiettato questo documentario Piano Piano On The Road, che racconta, è vero che è di qualche anno fa, perché racconta di un tour che ho fatto nel 2013 ormai, in cui ho caricato il pianoforte sopra un camion che diventava palcoscenico, aprendo gli sportelloni laterali, praticamente diventava un vero e proprio palco, e c'era il mio pianoforte a coda, quindi non un pianoforte digitale, insomma era veramente un'esperienza molto strana, in un certo senso molto particolare, che mi ha permesso tra l'altro di suonare in posti incredibili, dentro un bosco, sopra una montagna, in riva al mare, insomma 15 date in luoghi straordinari, che appunto è stato poi documentato in questo documentario di Marco Carlucci, che mi ha seguito appunto in tutto questo viaggio musicale, dal nord al sud dell'Italia, dal Friuli Venezia Giulia fino alla Sicilia. Quindi insomma è un'esperienza davvero particolare e bella. Partiamo da quello, seguiamo in ordine cronologico la serata e com'era partito questo progetto del tour? L'idea? Era partito dall'idea dal momento di crisi che nel 2013, diciamo, era molto forte, per cui sembrava tutto bloccato in Italia, non si riusciva più a trovare concerti, né, per cui così è venuta un po' quest'idea quasi giocosa di, beh, mo che faccio? Mi metto il pianoforte su un camion, l'ho buttata lì così, quasi scherzando, invece poi ho pensato che poteva essere un'idea veramente giusta da percorrere, e per cui sono stata finanziata attraverso un sito di crowdfunding di Musicraiser, e quindi sono stata finanziata così dalle persone che appassionate a quest'idea e a questo progetto. E i luoghi scelti come sono stati scelti? Un po' in vario modo, un po' erano le stesse persone che poi seguivano il progetto online attraverso la rete, che mi dicevano: ma vieni a suonare nel mio paese, vieni a suonare nella mia città, per cui mi davano dei contatti appunto loro stessi. In altri casi, città che magari mi sarebbe piaciuto vedere, tipo Matera, oppure insomma in vario modo, però soprattutto sempre grazie alle persone. In quasi tutte le regioni, perché dall'isola, anche addirittura all'isola d'Elba, imbarcando appunto il camion sul traghetto. E l'idea di realizzarne un documentario? E questo è venuto, guarda, con mia grande sorpresa, per caso, nel senso che un mesetto prima della partenza, forse nemmeno 20 giorni prima della partenza, mi è arrivata un'email da parte della Prima Film del regista Marco Carlucci, che aveva appunto attraverso la rete visto di questo mio progetto, e quindi mi ha chiesto se poteva seguirmi con una troupe per documentare questa storia. E ovviamente io ho accettato con molto piacere, anche perché insomma così resta qualcosa di questa avventura. Passiamo adesso all'album. Raccontaci un po' di questa nuova produzione. Sì, allora, una cosa che mi emoziona molto, e sono anche in questo momento emozionata, perché sono arrivati proprio ieri gli scatoloni con questi 500 vinili, che sto numerando a mano da 0 a 499 con il pennello, per dare appunto questo oggetto come veramente unico ognuno. E direi che proprio la particolarità dei vinili è proprio questa, che poi ogni vinile è diverso dall'altro. Quando si stampa un CD, ne ho fatti tanti nella mia, insomma, storia di pianista, sono credo forse 17 i CD che ho fatto con varie etichette, sia inglese che americana. Però questo è il primo disco in vinile. E appunto dicevo, la differenza sta proprio in questo, che i CD, una volta che ne ascolti uno, gli altri sono tutti identici. I vinili sono tutti uno diverso uno dall'altro, magari c'è quello scricchiolio che a qualcuno può dare fastidio, ma che in realtà è proprio un po' la sua, no, caratteristica, e questo è un po' il bello e la cosa che rende il vinile, secondo me, emozionante. Quali sono i tuoi riferimenti musicali? Sono tanti, diciamo tanti, e anche tanto diversi uno dall'altro, perché ovviamente io ho una formazione classica, suono da quando sono bambina, da quando avevo 6 anni, ho fatto poi il conservatorio di Roma, ho studiato a Praga, insomma, quindi ho una formazione classica, Dopodiché però sono sempre stata anche un po' curiosa, anche un po' ribelle forse, per cui già ai tempi del conservatorio in realtà più che Chopin magari mi mettevo a suonare le cose di David Bowie, così, per cui c'è un miscuglio di tante cose nella mia musica e mi piace del tutto, dal rock al punk, alla classica, alla musica antica, per cui non saprei dare una definizione proprio precisa, però diciamo che da diversi anni ormai soprattutto suono mie composizioni, che sicuramente sono influenzate da tante cose. Tra gli autori classici, diciamo soprattutto gli impressionisti francesi, Ravel, Debussy, soprattutto Satie, che è il mio autore del cuore. Sono tutti piano solo o ci sono anche altri strumenti? In questo album in vinile è solo piano, sono proprio due suite, una sul lato A e una sul lato B, di solo pianoforte, è registrato tutto in presa diretta, senza tagli, senza cose varie, riduttori di rumore, eccetera. È proprio un disco registrato come fosse un live, con solo pianoforte. Negli altri miei CD precedenti ci sono varie collaborazioni anche con musicisti elettronici o chitarra, insomma, un disco addirittura avevo fatto piano, batteria e un tentativo di cantare con la mia voce, quindi insomma sono uno diverso dall'altro. Ha un concept questa raccolta, c'è un filo conduttore, che anima ha? Sì, il filo conduttore è il colore blu, infatti il disco si intitola semplicemente Celletti Blu, cioè il mio cognome è questo colore, ed è un lavoro che ho fatto praticamente stando accanto a mia mamma, che purtroppo è scomparsa proprio pochi giorni fa, neanche un mese fa, e quindi tutto questo disco è dedicato profondamente a lei, perché ho composto con lei accanto che dipingeva quasi sempre usando appunto il colore blu. Quindi ecco, è un po' un omaggio a lei e un po' un omaggio a questo colore che è comunque il mio colore del cuore, proprio il mio colore preferito. Alessandra, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più su questo lavoro, ma anche sulla tua attività in generale? Dunque, ho un sito ufficiale che è www.alessandracelletti.com, poi ho diverse, ahimè, pagine su Facebook che riesco a seguire un po' in malo modo, però c'è sia la pagina anche lì ufficiale Alessandra Celletti e poi c'ho un po' tutto, un po' Instagram, dovrei avere 7 vite per riuscire a seguirli un po' tutti bene, però cerco di fare il meglio che posso. Comunque su internet insomma si trova tante cose, anche il canale YouTube dove si può vedere i video, anche ci sono 3 brevi frammenti già da questo lavoro in vinile Ecco, su YouTube. per accompagnarlo ci sarà un'attività concertistica prossimamente. Per il momento ho qualche data, non tantissime, ma spero che adesso ne usciranno fuori di più. Comunque suonerò adesso, vabbè, il 15 l'abbiamo detto, qui a Roma lunedì, e poi suonerò il 12 maggio a Trieste al Teatro Miela, dove fanno ogni anno un festival dedicato a Erik Satie, quindi lì sono un po' di casa, lì a Trieste. Poi suonerò il 25 maggio vicino Roma, a Viterbo. E poi vediamo, e poi c'è questo progetto, perché non abbiamo detto all'inizio che questo piano piano on the road sarà presto esportato in Cina, con i sottotitoli in cinese, non vedo l'ora di vedere questo documentario sottotitolato in cinese. E quindi il produttore appunto spera di riuscire anche ad organizzare un concerto lì, però questo ancora non è fissato e non è sicuro, vediamo un po'. Bene, allora ricordiamo la serata evento a Roma, allo Spazio Apollo 11, lunedì 15 aprile 2019, con la musicista Alessandra Celletti che presenta il suo nuovo album Celletti Blu e il documentario Piano Piano On The Road di Marco Carlucci. Alessandra, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie tantissimo e come si dice adesso, viva il lupo. Ciao, ciao, grazie.